benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Indie Radio, ve lo ricordo, la potete ascoltare solo su Radio Transizione di Fase ogni venerdì alle ore 20:30 e ogni sabato in replica alle ore 20. In questo numero, il primo di dicembre, ci occuperemo di movimenti globali e parleremo dunque di come ad Oklahoma sia stato fermato un treno merci da parte del movimento, mentre ad Atene vi è stata una redistribuzione dal basso di merci contenute nei negozi. Parleremo poi di antifascismo dopo il girotondo del 26 novembre di Casa Pound a Napoli, un momento nel quale si è avuta una forte risposta da tutta la città che non voleva questa manifestazione dei sedicenti fascisti. E quindi parleremo di come a Napoli sia stato arrestato un militante di Casa Pound che i primi di novembre si era reso protagonista insieme ad altri 15 camerati di un assalto ad alcuni militanti, 5 per l'esattezza, addirittura del PD. E poi parleremo invece di Salerno, sempre per quanto riguarda l'emergenza fascista, e vi racconteremo quelle che sono le continue provocazioni di Casa Pound ai danni soprattutto di asilo politico, di uno spazio sociale, ma comunque ai danni di tutta la parte sana e antifascista della città. Ci occuperemo poi di ambiente e parleremo dell'oscurantismo che ancora regna attorno al poligono militare di Quartu in Sardegna. E poi ancora parleremo di spazi sociali e vi racconteremo la storia dello spazio sociale di Isa Rebeldia, che è in lotta addirittura per riuscire a dialogare con il sindaco della città. Si è dovuta effettuare una accampata con le tende nella piazza appunto del comune. Quindi vediamo come gli spazi sociali in tutta Italia vengono ora ignorati, ora respinti, ora presi in giro, ma pur sempre vengono ricacciati dagli spazi pubblici. Infine, dalla Calabria vi racconteremo del sit-in che si è svolto a Palazzo Campanella da parte della rete difesa del territorio, che intende così ribadire le autentiche emergenze ambientali in Calabria. Infine vi diremo alcune notizie su Transizione di Fase che vi anticipiamo. Infatti domenica 4 dicembre vi sarà una diretta incrociata per due eventi in contemporanea. Uno da Roma, Porn to be Alive, e uno da Cosenza, Festa Libertaria, per i 40 anni della rivista anarchica A. Quindi ci saranno dibattiti, incontri, interviste e anche tanta musica. Ascoltate dunque questa incrociata diretta da Roma e da Cosenza su Radio Transizione di Fase tutta la giornata di domenica, dalle ore 13 circa fino a notte fonda. Non ci resta che salutarvi, continuate a seguire Radio Transizione di Fase e ascoltate questo nuovo numero di Indie Radio, il programma di informazione indipendente che potete ascoltare solo su Transizione di Fase. finisce bene se tu mangi scavo scavo la più buona, scavo la più meglio. E poi capisce perché sta mamma si imbruglia. Nord e sud alle volte opponente, dice come ne siamo stato malamente. Francesco e la vittoria e Garibanda, prova che girano poi da tutto quanto. Se ne è spartito terra uomo nel denaro, riposti dentro pare una industriale. Se ne è spartito terra uomo nel denaro, e ne hanno fatto tutto quanto sa cavare. Sud, ma bruciata, problema che ci visto a me. Ma bruciata, pronto. Ti voglio far sapere chi ha costruito sto paese. Ti voglio far sapere chi ne aveva di spesa. Chi è stata deportata per quarta e sotto mesa. Qualcuno siciliano e calabrese. Fammi miseria, schifezza e malattia. Chi è stato prezzo che aveva da terra mia. Avete questo fuoco di lussi città. Macchina, palazzo, eroina, quantità. Apriamo la nostra pagina internazionale con delle notizie che riguardano soprattutto i vari movimenti sparsi nel mondo che cercano di dare una alternativa rispetto alla crisi. Partiamo da Oklahoma, infatti nei pressi di questa cittadina degli Stati Uniti è stato bloccato un treno merci. Infatti i treni merci, a differenza di quelli passeggeri, negli Stati Uniti sono ancora molto diffusi. Questo treno è stato bloccato e per quanto leggiamo sul Newswire di Indy Media Italia, leggiamo probabilmente si tratta di un comunicato che è stato traslato in lingua italiana, leggiamo che questo treno è stato fermato perché si è stanchi di vedere continuamente le proprie ricchezze, le ricchezze della propria terra, quindi legname e altre materie prime che abbandonano la propria terra. Ma si è pensato di bloccare anche questo treno in solidarietà ad altri militanti che sono stati arrestati un po' in tutto il mondo. Invece per quanto riguarda la Grecia, leggiamo come negli scorsi giorni sono state effettuate delle azioni di natura potremmo dire non solo dimostrativa ma anche pratica. Infatti nel quartiere Exarchia e in un altro quartiere nei pressi sono stati effettuati quelli che in Italia venivano definiti espropri proletari, ovvero alcuni militanti si sono recati all'interno di alcuni supermarket e hanno portato via numerosi beni di consumo alimentare soprattutto, e hanno poi distribuito ai passanti che si erano radunati in alcuni mercatini e i vari generi. Si legge nella notizia pubblicata sul Newswire di Media Italia che la popolazione ha accolto benevolmente questa manifestazione, diciamo così, e soltanto in un caso un dipendente di uno di questi negozi avrebbe sottolineato che si trattava di una vergogna. Ebbene, nel comunicato greco, i compagni greci appunto dicono che la vergogna non è tanto il loro gesto quanto soprattutto quello che stanno facendo sulle spalle dei lavoratori, del popolo intero, i grandi capitalisti. Quindi ancora una volta vengono distribuiti beni che altrimenti molte persone non potrebbero permettersi, e questo dunque accade in Grecia. Oh, ancora a parlare di antifascismo. Infatti nella scorsa settimana vi abbiamo parlato di quelle che sono state le iniziative a Napoli e di quella che è la mobilitazione a Milano rispetto a queste manifestazioni indette da Casa Pound. Ebbene, lo scorso 26 novembre a Napoli Casa Pound fondamentalmente ha fatto un bel giro tondo intorno alla piazza. Non c'è stato il corteo previsto appunto da questa formazione neofascista. Leggiamo per esempio sul Newswire di Indymedia Roma che Casa Pound spara grossi numeri, ma analizzando poi alla fine quelli che sono gli stessi video, le stesse foto prodotte da Casa Pound sulla manifestazione, ci rende conto che chiaramente queste cifre sono molto molto gonfiate. Uno striscione tenuto su da 3-4 persone, dietro poi il nulla, insomma. Si è visto questo a Napoli e si vedrà questo in tutte le zone d'Italia che saranno, speriamo poche o nessuna, interessate da questi fenomeni pittoreschi, ovvero le cosiddette manifestazioni di Casa Pound. Ad ogni modo non dobbiamo abbandonare l'attenzione rispetto a questa questione e infatti parleremo ora di quello che è successo ancora una volta a Napoli. E infatti apprendiamo dal Newswire di Napoli Indymedia che un fascista di Casa Pound appartenente a blocco studentesco, diciamo fascista perché loro reclamano questa appartenenza, e quindi un giovane fascista viene appunto arrestato in questi giorni a Napoli perché si era reso partecipe insieme ad altre 15 persone di una rissa, o diciamo così, di un agguato, forse il termine giusto, ad alcuni giovani, penso un po', militanti del PD che avevano appena finito un attacchinaggio. Ebbene, nei primi di novembre a Napoli questi giovani del PD venivano accerchiati da 15 persone, tutte a volto coperto tranne una, e questa persona, il cosiddetto Zippo di soprannome, è stata identificata dai militanti del PD e subito il partito aveva stigmatizzato l'accaduto, ma Casa Pound aveva prontamente negato qualsiasi tipo di coinvolgimento in questa vicenda. Ebbene, ora, dopo le varie indagini condotte dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, ebbene, dobbiamo dire anche questo, anche questo ci tocca dire, ebbene, questo giovane è stato arrestato ed era, guarda un po', di ritorno dalla Thailandia. Si trattano bene questi giovani neofascisti, insomma. Chissà che ci sarà andato a fare in Thailandia, forse sarà andato lì subito come premio per aver partecipato a questa spedizione. Ad ogni modo questo giovane nazifascista, Casa Pound, insomma, se ne possono dire di tutti i colori, è stato arrestato ora a Napoli e si trova adesso a Roma. Chiaramente il carcere, come si scrive su Indymedia Napoli, non si augura a nessuno, ma i fascisti sono meno di nessuno. E parliamo ancora di antifascismo, rimaniamo sempre in Campania e rimaniamo sempre su Napoli Indymedia, ma ci spostiamo dalla città partenopea alla vicina Salerno. Qui infatti ci sono numerosi bravi ragazzi che continuano ad effettuare le loro belle bravate, soprattutto ai danni dell'asilo, del centro sociale asilo politico. Infatti alcuni giovani più volte hanno manifestato, diciamo così, i loro intenti bellicosi. In particolare nel 2007, il 25 aprile, venivano esposti dei fantocci impiccati con la scritta partigiani, proprio come facevano le forze nazifasciste della Repubblica di Salò ai partigiani. Le provocazioni sono state tante, non ultima quella che invece si è verificata poco prima della manifestazione a Napoli del 26 novembre, che come sappiamo ha visto la massiccia mobilitazione antifascista. Ebbene, asilo politico aveva esposto fuori dal proprio edificio, dall'edificio nel quale si trova, aveva esposto dei cartelli di di carta, fondamentalmente, dove si parlava appunto di questa mobilitazione antifascista. Ebbene, prima alcune forze dell'ordine, vedendo questi manifesti, si sono avvicinate, pare insomma un po' spaventate, un po' allarmate. Chiaramente parlare di antifascismo è una cosa del tutto legale, lo ricordiamo a chi magari soffre di revisionismo storico. Invece, per la Costituzione italiana, parlare di fascismo significa commettere un gravissimo reato. Tuttavia, questa norma costituzionale, il più delle volte, soprattutto nei casi in cui vediamo questi bravi ragazzi di Casa Pound a girarsi con i loro manifesti, ecco, soprattutto in queste occasioni si dimentica di applicare questa norma, questa legge. E pare invece che parlare di antifascismo ormai sia quasi una sorta di reato, perché ne parlano appunto i comunisti, come avrebbe detto un vecchio premier. Ebbene, subito dopo la visita e l'interessamento mattutino delle forze dell'ordine, la notte, guarda caso di notte, giungono alcuni personaggi non identificati, ma facilmente possiamo capire di chi si tratta, di che cosa si tratta più che altro, che hanno imbrattato i muri, hanno cominciato a scrivere le loro stupide frasi fasciste, eccetera eccetera. Quindi vediamo che anche a Salerno fondamentalmente si tratta di un allarme per la presenza di queste forze, di questi individui che continuano a girare indisturbati. Magari si potrebbe applicare appunto quella norma che dicevamo prima, tutta costituzionale. Quindi non abbassiamo la guardia e continuiamo sempre a parlare di antifascismo, non per altro perché ancora, come ben vedete, sono fra noi e sono presenti un po' in tutta Italia. A casa mia non ci può stare spazio vitale, identità razziale, che tutto quando tenendo l'orgoglio nazionale. Fatalo, la casa non ci può stare. Fatalo, la a casa mia non ci può stare. Fatalo, ciò non posso manco risciata. Razza, cultura, nascita, nazione, sto diventata droga, la popolazione. Fatalo, la non hai capito. Fatalo, fatalo, la insieme a noi non ci può stare. Fatalo, ciò manca per noi non ce ne sta. Se c'è una foto sì, di donde a chi viene e chi ottenne lo lungo per di donde a chi viene e nessuno lungo per ambiente, in particolare di una tematica che si coniuga con elementi militari, ai noi, ovvero stiamo parlando del poligono di Quirra, che si trova in una zona della Sardegna, un poligono intorno al quale sono spesso sorti numerosi dubbi, perché non si capisce bene quali armi vengano utilizzate, molte persone si ammalano, così come soprattutto molti animali muoiono intorno a questa zona. Quindi occorre fare chiarezza. occorre fare chiarezza, ma al momento pare che proprio questa manchi. Infatti sono stati effettuati dei rilevamenti che parrebbero dire che non vi è nulla di strano intorno a questo poligono. Addirittura Legambiente dice che è tutto a posto, si cerca in altre parole di minimizzare i danni, di minimizzare questa questione. In realtà, come dicevamo, la chiarezza è ben poca, si parla di bonifica, ma in queste ultime analisi effettuate si dice che basterebbe la bonifica solo di 7 km, in realtà si parla di almeno 70 km da bonificare. E questo perché, come dicevamo prima, in quest'area non si capisce bene, almeno la società civile non sa, non conosce quelli che sono i segreti militari che determinano magari la sperimentazione, o non sappiamo bene che cosa, a ogni modo uso di armi abbastanza strane e particolari. Quindi si richiede chiarezza, gli abitanti hanno necessità di conoscere le sorti del loro futuro, della loro vita e della loro terra, ma ancora una volta, per quanto riguarda le questioni ambientali in Italia, la chiarezza è veramente scarsa o nulla. Addirittura in molti casi, come ben sappiamo, si tende soprattutto a insabbiare le notizie, ad insabbiare le conoscenze, e si lasciano quindi morire le persone e si lascia così distruggere un intero ecosistema. Ci auguriamo che comunque questa vicenda possa giungere ad esiti positivi, ovvero intera bonifica dell'area per tutta la sua vastità e soppressione di questo poligono fondamentalmente. Compiacimento tu, hai bollato di gioventù, ti torneranno a cercare. Certe storie vissute si mappino in fondo sbagliate, coi colori apparenti di una sgargiante bandiera. Se il tuo mondo confina il tuo giardino, se il tuo cielo si ferma al tuo balcone, sarai presente a chiamarti quando meno te l'aspetti. Saranno i mostri creati dalle noie quotidiane. Lei era bella, ma bella davvero. E allora sai perché? Quando venni, venni dentro di me. Lei era bella, ma bella davvero. E allora sai perché? Quando venni, venni dentro di me. She's on there. Parliamo ora di spazi sociali, come sia difficile riuscire a mantenerli. Il più delle volte, infatti, le amministrazioni scelgono la via dello scontro, del muro contro muro, altre volte invece quella del falso dialogo, cioè io parlo con te, faccio finta di ascoltarti, ma poi alla fine faccio quello che decido io. Ebbene, sono sempre delle situazioni abbastanza difficili da gestire. A Pisa sta accadendo proprio che l'amministrazione comunale, soprattutto nella persona del suo sindaco, rifiuta categoricamente di dialogare con lo spazio Rebeldia, che rivendica il diritto all'esistere in pratica. Ebbene, questa volta lo spazio Rebeldia ha deciso di essere in piazza del comune con le tende. Si sono succedute una serie di eventi, incontri con i consiglieri comunali, con i capogruppo e via dicendo. Persone, alcuni militanti sono entrati nella sede del consiglio comunale, dove appunto si sta svolgendo un incontro del consiglio, e alla fine una piccola delegazione è stata ammessa al dialogo con il sindaco della città. Tuttavia si è ottenuto di avere a breve un altro incontro per cercare di stabilire se è possibile assegnare o meno uno spazio, un determinato spazio, a questa realtà sociale. Ebbene, oggi che vengono a cadere, a crollare tutta una serie di offerte, diciamo così, dello Stato sociale, una serie di garanzie dello Stato sociale, la presenza di spazi come questi in tutta Italia dovrebbe essere soprattutto tutelata, ma chiaramente chi ci amministra non ha tutta questa lungimiranza il più delle volte, e quindi preferisce lo scontro o l'inganno, come dicevamo prima. Ci auguriamo comunque che questa vicenda di Pisa trovi presto una un'ottima soluzione per il per lo spazio sociale, e staremo a vedere dunque. Come ultima notizia parliamo del sit-in che si è svolto in Calabria il 2 dicembre, proprio oggi, per chi ci ascolta in diretta. Ebbene, la rete difesa del territorio Franco Nistico ha indetto questo sit-in a Palazzo Campanella per ricordare ai politici locali, ai politici calabresi, quelle che sono le reali esigenze e le reali emergenze. Infatti il necessario, sostiene la rete difesa del territorio, dire basta al commissariamento per l'emergenza rifiuti, e si auspica dunque che il 2011 sia proprio l'ultimo degli anni, 14 ormai, nei quali appunto vi è questa figura del commissario a questa emergenza. Poi è inutile continuare a parlare di dissesto idrogeologico, idrogeologico solo nel momento in cui si verificano delle frane, degli smottamenti. Occorre dunque agire in maniera adeguata e non solo lamentarsi all'indomani degli accadimenti tristi. Altri elementi importanti che hanno determinato questo sit-in sono sicuramente quelli legati all'acqua. Infatti, in relazione anche al Comitato dell'Acqua Bene Comune Bruno Arcuri, si richiede alla classe politica calabrese di recepire quelle che sono state le volontà espresse dal popolo italiano in occasione del referendum del 12 e 13 giugno scorsi, con il quale è stata sancita la volontà popolare, fra le altre cose, di avere la distribuzione delle acque in maniera pubblica, e quindi bisogna dire basta alla privatizzazione della distribuzione delle acque. Ma ancora in Calabria ciò non è avvenuto, così come in tante altre regioni d'Italia, e infatti vi abbiamo già parlato di quella che è stata la manifestazione del 26 novembre scorso a Roma da parte del popolo dell'acqua, che appunto intende difendere gli esiti referendari che ancora la classe politica non ha recepito, facendo in realtà orecchie da mercante il più delle volte. Quindi con questo sit-in si sono sottolineate le reali emergenze ambientali della regione Calabria, non da ultime le bonifiche dei terreni che in questa regione sono stati molte volte distrutti per via di scariche e versamenti inadeguati. Ricorderete per esempio la vicenda di Crotone, della quale vi abbiamo già ampiamente parlato anche in occasione della passata manifestazione del 12 novembre scorso proprio nella città pitagorica, organizzata dalla rete difesa del territorio Franconisticò, e con la quale si intendeva chiedere sì la fine del commissariamento all'emergenza rifiuti, ma si voleva anche porre l'accento su una città che è stata totalmente avvelenata da alcune aziende prive di scrupoli che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, e ancora oggi si aspetta una reale bonifica che non vi è stata. Ma Crotone è solo un esempio, un simbolo di tante e tante altre piccole o grandi realtà, piccole o grandi emergenze ambientali della nostra regione. Quindi il sit-in di oggi intendeva porre l'accento proprio su questo. I politici dovrebbero fare attenzione alle reali problematiche, ma forse sono troppo impegnati oggi, in questi giorni, a difendersi dagli attacchi della magistratura. Infatti, come saprete, un politico del Cosentino è stato arrestato per i suoi presunti, diciamo così, perché è quello che ci prescrive la legge, non si è colpevoli fino al processo avvenuto, quindi per i presunti rapporti con la malavita, in particolare quella lombarda, e in queste indagini infatti si parla di questo asse Calabria-Lombardia, che vede come esponenti importanti politici e mafiosi e gente di malaffare. Parliamo in realtà però dei problemi reali della Calabria, e abbandoniamo questa falsità dell'antimafia, abbandoniamo la falsità delle parole vuote e dedichiamoci alla risoluzione dei reali problemi di questa terra. E questo è dunque il senso reale di questo sit-in, come di tante altre manifestazioni che si sono avute e che si avranno sicuramente in questa regione. Vi ricordo che questa ultima notizia era tratta dal Newsguard Indy Media Calabria. Mi è sempre mancato uno spirito etico, autentico e domesticato. Mai tardi ormai per la questione morale, è come imporre ai tuoi 26 figli l'anticoncezionale. Sull'aborto invece lei che deve deliberare, perché l'uomo è cacciatore ma ha paura a sbarrare. Hip-hip-hurra! Alla mia età vivo bene anche queste contrarietà. Indie Radio finisce qui, ma vogliamo ricordarvi lo speciale di domenica 4 di Radio Transizione di Fase. Infatti ci sarà una diretta incrociata da Roma, e l'evento Porn to be Alive, e da Cosenza Festa Libertaria per i 40 anni della rivista anarchica A. Quindi seguite gli avvenimenti, seguite Radio Transizione di Fase per questo nuovo esperimento di diretta incrociata. Noi vi diamo appuntamento come Indie Radio alla prossima settimana, sempre venerdì alle ore 20:30. Vi ricordo invece che sabato potrete ascoltare la replica alle ore 20. Genetica, etica, dimmi se passiamo la soglia. Alla soglia! Se clonando un uomo non si rischia di clonare la noia. Ma come può evolversi l'uomo, poi se fa l'impiegato? Imparando dei buoni motivi per farsi malato. Nell'etica, come per la terzi, ci vuole l'esercizio. La prima lama solleva il pelo, la seconda il vizio. E beh, finito. Già ritorno. Le cose improvvisamente. Dio è l'addio, è laico.